Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. In Campania, anche se vuoi affiggere i manifesti, devi pagare dazio. Non sto parlando delle imposte per le pubbliche affissioni, dove suppongo il tasso di morosità ed evasione sia elevatissimo, in questa come in altre regioni. No, parlo della tassa che bisogna pagare ai clan. Ne sa qualcosa un politico che per poter affiggere il suo bel faccione nella zona di Sant'Erasmo, zona vecchia e degradata di Napoli tra Piazza Mercato e Ponticelli, doveva passare per Ziminuzzo al secolo Carmine Montescuro, 78 anni ma ancora carisma e potere da vendere. Gli uomini della segreteria del politico, del quale il nome è assolutamente inutile, oltretutto sarebbe anche parte lesa, nel 2009 vennero contattati dagli uomini dell'Arzillo Vecchietto e costretti a versare, così raccontano le indagini svolte dalla DIA di Napoli per conto della direzione distrettuale antimafia del capoluogo, oboli sostanziosi e soprattutto non spontanei. Il bello è che, come in tutte le trattative economiche degne di questo nome, la cifra inizialmente pattuita non era stata ritenuta congrua ed ecco dunque la necessità di rivedersi per patteggiare un nuovo obolo. Ziminuzzo è finito in manette insieme ad altre 9 persone accusate di estorsioni, molte delle quali compiute a ridosso delle festività pasquali, per mantenere gli uomini del clan che avevano bisogno di soldi subito, fino al punto di chiedere in anticipo la rata di Ferragosto. Ziminuzzo viene indicato da alcuni collaboratori di giustizia come un paciere tra i principali clan camorristici della città e forse anche per questo sarebbe riuscito a schivare faide e vendette. Il suo ruolo di paciere veniva svolto alla luce del sole, tanto che all'ordinanza è stata allegata anche una foto della DIA in cui viene ripreso mentre parla pacificamente con alcuni rappresentanti di clan cittadini, quando si dice la diplomazia.